ho visto gli studi dove Fellini ha girato tutti i suoi film. Sì. Lo studio 5. Sì. Mm-hmm. E dove ora c'è? Aspetta. Vabbè, ha detto Fellini. Per dire l'altro nome deve aspettare un po'. C'è un embolo. Capisci? Maria? No, tra l'altro mi stava dicendo Alò, perché uno che ne sa di cinema, un po', lui sì, che non c'è una targa, una scritta. E sulla fiducia. Diciamo, no? Che Fellini ha fatto fare, non dico la fortuna di Cinecittà, però insomma gli ha dato una bella spinta, anche se insomma negli anni precedenti a Fellini insomma si facevano film su film, per carità. No, però possiamo dire che con buona approssimazione che se è conosciuto all'estero come luogo è quasi esclusivamente, diciamo, merito di Fellini. Cioè, questo sì. Non c'è una targa, una non scritta. C'è una scrittina, col non gesso. C'è niente. C'è solamente, l'hai vista, no? La medusa del Satiricon, era la medusa, sì. La medusa del Satiricon all'entrata, quando fai quel viale c'è quella medusa con la testa gigante, con sì, la corona. No, ma nel suo studio, senza targa, vero? No, senza targa, cioè nello sempre studio senza 5 targa. C'è, ci sono due striscioni enormi, ma è veramente, io ho fatto le foto, ma veramente enormi cioè proprio di fronte allo studio 5 dove girava Fellini, due striscioni enormi di amici. Calla, sì. Ma abbiamo chiuso noi. Amici, perché come si chiama quella? No, vabbè, come si chiama? Lo dice Gabriele. Lo dico io, lo dico io, che sono forte di stomaco. Dimmi, vai. Maria De Filippi. Maria De Filippi fa, non so se lo farà ancora, amici, sì. Cioè faceva e farà, sì, per sempre. Amici là dentro, e ci ha lasciato i due striscioni giganteschi nero su bianco, amici, e non c'è neanche, sì, un quadretto dove è scritto qui ci ha lavorato Federico Fellini. No, non solo, se non sbaglio non c'è neanche la targa. Questo sarebbe il set di Gangs of New York, non no, c'è una targa. No, cioè, noi lo sappiamo. Però c'è il set di Gangs of New York. Sì, no, c'è, mezzo, perché, io ho visto, perché costa di distrutto. Più smontarlo, è molto più costoso smontarlo che lasciarlo lì. Che io l'ho visto. È bellissimo. Sandra, bellissimo. Abbiamo fatto una passeggiata bellissima. Siamo arrivati anche sul set di Amici Miei. Ah, il futuro fantastico. Amici Miei. Ah, quello che adesso esce a Natale. Sì, ma forse non dovremmo dirle queste cose, perché secondo me c'è. Ah, sì, in effetti sì. No, vabbè. Così, forse eravamo forse lì. Forse non siamo mai stati lì. La cosa bizzarra è che non c'è merchandising. Uno dice: entra dentro Cinecittà, mi compro una maglietta di Cinecittà, che ne so, un DVD di un film. Zero. Sì, lo studente americano che è stato da noi a fare questo seminario era sconvolto da queste cose. È come il mio amico etiope di Eccebombo. Cioè l'amico etiope che è sconvolto dall'Italia, no? E allora lo studente americano appunto diceva: ma in questo bar non ci sono i libri su Cinecittà, ci sono dei VHS. Gli ho fatti vedere. C'è una vetrina con 10 VHS che poi cosa magari c'è Porky's. Non lo sappiamo. Vabbè, perché? Perché l'Italia? No? Perché io penso che lì, perché? Non so i proprietari chi saranno, no? Insomma, comunque, voglio dire, gente che vorrebbe fare dei danari, immagino. No, probabilmente no. Perché vabbè, lì, senti, comunque quello è un io pozzo, devo lavorare là, eh. È un pozzo senza fondo, cioè lì potrei. Inception di Christopher Nolan. Sì, prima che ci caccia. Sandro, te prego. Va bene, andiamo avanti. Ok, fate conto che non avete ascoltato nulla, bene. Soprattutto voi, capi di Cinecittà Studios. Lo dirò quando, posso dirlo quando starò da solo? Sì, sicuramente. Quello sì, quando sì, sto sì. Da solo posso sì, dire. Sì, noi smentiremo. Sì. E se dici anche che quando l'hai detto noi ci siamo arrabbiati, ci fai un favore. Sì, Sandro, sì, no, mi hanno proprio Sandro, urlato, piantala, idiota! Non amo questo dispattismo. Sì. Sei un po' come l'Istat che dice tutte queste cose che non sono vere. È vero. Perché l'Italia sta andando alla grande. Lo so. E c'è la democrazia e c'è la libertà di stampa. Lo so. Allora. Lo so. Vabbè, allora parliamo di cinematografo. Ah. Intanto, oramai, cosa? Venezia chiusa. È Ita. Chiusa. È Ita. Però Ita questa settimana esce un film italiano che è stato a Venezia. Ah. Perché adesso cominciano poi a uscire, no? Adesso a scaglioni lungo tutto l'anno usciranno. Questa settimana, anzi oggi proprio, esce La Passione di Carlo Mazzacurati. Partiamo da film lei. Italiano. Sì, perché dai, no? Vai, perché film italiano che è stato a Venezia, non ha racimolato niente, come tutti i film italiani a Venezia. Però Credo che su questo io e Francesco la pensiamo alla stessa maniera. Mi arrogo il diritto di dire questa cosa. E però è un film che è sorprendente, bello, carino per larga parte. Poi alla fine un po' si perde. E quindi il giudizio, sia per me che per Francesco, è tutto sommato negativo, perché muore proprio alla fine, rivelando tutti quei difetti che solitamente imputiamo al cinema italiano e per i quali diciamo: ma perché? E ci crogioliamo. Però peccato, perché partiva bene stavolta. Sì, partiva che abbiamo riso molto. I primi 5 minuti c'è un messaggio in segreteria molto divertente di uno sceneggiatore che lascia. Ma questo, avete letto questa notizia? Oddio, che. Vabbè, no, dopo nella pausa leggetela, lo perché Svazi. È meravigliosa. Meravigliosa. Santa Lucia. Ah, la lettera? No. Il re dello Swaziland ha beccato il suo ministro a letto con una delle sue 14 mogli. Del ministro o del re? Del re. Ah, ok. Il re, che si chiama Mswati III. Ma dopo ve la leggete con calma. Adesso via. No, parliamo Santa di Lucia, la lettera autentica. Dicevamo, sì, il film la passione. La passione. Avevi dei dubbi? No, è che questo è il cinema, no? Lo so, è questo è il cinema. Cioè, noi stiamo a parlare di politica. Esatto. Noi siamo diventati dei giornalisti proprio di una tristezza. E chi si occupa di politica e di cronache italiane, voilà, sta nell'iperreale totale. Tu pensa, io quando parlo di queste cose, sai che metto di... Oggi proprio ho avuto l'illuminazione. Sai che base musicale metto quando parlo di queste cose? I Puffi. Sì. Che fra poco diventerà un film, quindi... Sì. Ma un film con carne ed ossa, con live action e blue. Puffi in 3D, animazione computerizzata, però con gli attori in carne e ossa, tutti piccoletti. No, gli attori sono attori, e poi sono i Puffi che sono fatti in computer grafica. Ah, sono piccolini. Cioè, DiCaprio ci sarà probabilmente. Sarebbe adatto, non essendo un uomo. Andiamo avanti. Allora, la passione è molto divertente, non solo, c'è grande scoperta. L'inizio. No, ma secondo me la cosa è, c'è una grande scoperta nella passione. La trama in due secondi. Va bene, hai ragione tu. Vai. La faccio io? Vai. Un regista italiano in crisi, si chiama Dubois, forse anche per questo è in crisi, interpretato da Silvio Orlando, viene costretto da una serie di eventi che non vi diciamo, perché sennò dirigere una sacra rappresentazione live dal vivo in un paesino della Toscana. Esatto. Una sacra rappresentazione, immaginate Amici miei. Il cinema, la scena di Amici miei, lui che è innamorato tanto della donna, e Gastone Moschin si presta, peraltro faceva Gesù Cristo, no? E gli amici cattivi che lo menano. Allora, questo è il referente cinematografico più forte. Quindi, si fa la sacra rappresentazione della passione di Gesù Cristo. Il regista viene ricattato, viene costretto a farla. Deve andare nel paesino, e quindi è un po' la storia del cittadino, del metropolitano che viene salvato in un momento di crisi esistenziale dalla provincia. Però non prima di passare una roia passione, che poi in provincia gli danno giù, lo umiliano. Ma dicevo, la grande scoperta della passione è che c'è il grandissimo, mai troppo celebrato, Corrado Guzzanti in un ruolo secondario, da caratterista, che secondo me è una rivelazione, nel senso che secondo me Guzzanti non è, ha tutti i meriti che gli possiamo riconoscere, ma non è un attore in grado di reggere un film da protagonista, quantomeno non l'ha dimostrato finora. Mentre invece, da attore secondario, con questa piccola parte, che poi è un piccolo personaggio dei suoi, che gli hanno dato, emerge moltissimo, e dà al film una marcia in più, tra l'altro, cioè, tirando fuori alcune battute esilaranti che hanno proprio il suo marchio, cioè che sono quelle cose fatte come fa lui, che sono da morire. No, a me invece l'ho gradito molto questo inserimento. Insomma, Corrado Guzzanti col capello lungo, Prince, lucido, nero, da Piton di Harry Potter o da Manuel Agnelli degli After Hours, fa questo attore cane, ed è un po' troppo, adoro Corrado Guzzanti in TV, è un po' troppo se stesso e poco attore cinematografico, e quindi parla come un po' il profeta di Quelo, e non va bene in un film, è troppo forte la sua tradizione televisiva, che è un po' stona. No, secondo me anzi a un certo punto si integra molto bene. Comunque, a parte questo, si deciderà, si vedrà, il pubblico la sentenza. A parte questo, la passione secondo me va bene al box office, è un film che piace, secondo me, nonostante poi a noi ci deluda il finale. Secondo me, Gabriele, no, vogliamo fare delle scommessine, vogliamo dare a cellulite e celluloide, metterci questa... dei soldi, vogliamo... Ma no, secondo me sarà abbastanza un flop. Dici? Sì. Comunque, chi lo infatti sa, infatti è un genio, l'invidia è brutta. Chi, il re? Chi è un genio? Non lo so. Credo il nostro presidente. Quale dei tanti? Allora, chiedono subito com'è Norwegian Wood, un film passato a Venezia che io non ho visto, ma il nostro Francesco Alossi. mi piace questo ritmo, Gabriele. Sì, ho visto Norwegian Wood a Venezia e l'ho trovato più brutto del libro, va bene? Meno sesso rispetto al libro e quindi meno corpi e soprattutto anche meno humor. L'ho trovato un film morto. Sai per caso se uscirà in Italia e quando uscirà? Penso che uscirà in Italia, Gabriele, ma non so, tu adesso stai digitando su internet, certo. Come sempre, perché non puoi vivere senza di lei. Per dare subito una risposta. Vediamo un attimo, Italia. No, ancora non c'è una distribuzione. Ancora non c'è una distribuzione. E forse non ci sarà mai, perché è una palla micidiale. E chi lo va a vedere? Un distributore, Sandro. Perché deve comprare Norwegian Wood? Bah. Scusa, no, io stavo vedendo gli sms, me ne sono arrivati a pioggia e non posso rispondere a nessuno, visto che stiamo parlando di cinema, purtroppo. Se la vi... Non c'è niente da fare, non mi sorprende ed emoziona nulla quanto la musica. Sarò strana, Laura, proprio no. Potresti dirmi il titolo? Di nuovo il titolo è autore del pezzo del 77? Simona? Erano le ore 21. Del 77 non ho mandato nulla. Forse del 67. Comunque se domani vai sul mio blog princefaster.com trovi la scaletta, quindi potrai cercartela tranquillamente. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco. Faccio una domanda a bruciapelo senza risposta a tutti e due. L'ultimo dominatore dell'aria. Ma soprattutto il film sopra l'ultimo dominatore dell'aria. Inception. Soprattutto di quello parliamo. Aspetti. Rieccoci di nuovo qui in diretta con Vasquez. Salò, prego. Sì, allora, nella passione però dobbiamo dire una cosa, Gabriele. Ah, okay. C'è Silvio Orlando che insomma così cos'ha, però c'è Battiston. Grandissimo. Giuseppe Battiston che è grandissimo. Come spesso capita, Giuseppe Battiston parte dalle retrovie, poi sale. Aspettiamo il film da protagonista. È troppo grasso? Provocazione. Ma lui aveva detto una cosa molto bella nella conferenza stampa del film di Silvio Soldini a cui aveva partecipato, sì. Che gli avevano fatto quelle domande, che poi spesso si fanno domande stupide ma si ottengono risposte interessanti. Avevano fatto una domanda abbastanza banale, cioè come si è preparato per il suo personaggio. Lui in quel film è un personaggio molto piccolo, come spesso capita a Battiston, e lui aveva spiegato che fare i personaggi molto piccoli è decisamente più difficile che fare i protagonisti, perché bisogna rendere un personaggio, un background, una vita così. In pochissime scene, con quattro battute bisogna dare tutto un mondo e un universo, e in questo lui è ad oggi, con tutte le limitazioni del caso, ad oggi in Italia è tra i più bravi, secondo me è tra i più bravi delle retrovie. Non dovrei rispondere a Tommy, che ringrazio, però devo guardare sul vinile. Che mi dice probabilmente la chitarra di Duane Allman, non lo so, però grazie delle informazioni, vedo che sei ben, come dire, ben messo nella musica. Grazie. Per chi non avesse capito, perché poi noi spesso andiamo con nomi e cognomi così, Battiston è l'attore corpulento che solitamente fa i film di Soldini, qualcosa di molto riconoscibile. Esploso con pane e tulipani. Faceva tulipani, l'investigatore goffo, era molto simpatico, era cercava molto, di andare a recuperare divertente. Lei che era scappata. E in Lucia Maglietta. Nell'ultimo film di Soldini che si chiama, al momento mi sfugge, Cosa voglio di più, lui è il marito di Alvaro Schwager. Non tergiversiamo perché abbiamo 20 minuti, allora, quindi vai. Voglio sapere i filmoni l'ultimo della settimana. Dominatore dell'aria. Partiamo vale la pera. Allora, sì, no, partiamo dall'ultimo dominatore dell'aria. Vai. Vale la allora, pera o non vale la pera? Secondo me no. Ecco. Vabbè, ma che... Però devo mettere le mani avanti. Io non sono un amante dei film di Shyamalan, che è il regista dell'ultimo dominatore dell'aria. Beh, avverto il pubblico. Si e dice Shyamalan. Sei sicuro? Shyamalan. Vabbè, non sono un fan dei suoi film. Shyamalan, lo sapevo, l'avevo controllato. Signor Francesco, ma lei? Si dice Shyamalan. Ma non c'è una I. Ho capito, ma si pronuncia così. Come io. Scritto allo? Scritto si pronuncia. Alo. Vabbè. Alo. Comunque si dice Shyamalan, scommettiamo. Vabbè, vale o no? Allora, io ho amato l'ultimo dominatore. Vabbè, quasi è stato anche l'unico, diciamo. Alessandro, io... Scusa se ti richiamo col tuo nome all'anagrafe, ma io ho amato... L'ultimo dominio dell'aria perché ne ho sentito parlare così tanto male che come Spinaceto in Caro Diario tu ne senti parlare male, poi arrivi e dici però insomma pensavo peggio. Allora è un fantasy, quindi tu probabilmente che non ami. No, io amo. Ami il fantasy? Porco cane. Allora c'è sta un bambino che... Tutto viene da un cartone americano, questa è la trama, viene da un cartone americano. Del 2005. Che si doveva chiamare divertentissimo, no, si doveva chiamare Avatar. No, il cartone si chiamava Avatar. E anche il film si doveva chiamare Avatar, però hanno deciso forse meglio no. È arrivato un canadese che si chiama Cameron, che è un po' violento, che ha detto: se tu provi Shyamalan, e l'ha chiamato col nome vero, e lui non si è girato, però Shyamalan non l'ha fatto finire, ha fatto hai ragione, all tu right, James. Vabbè, ma insomma, vale la pena o no? Per me sì, perché è un film sorprendente. Sarà che ne ho sentito parlare così tanto male, è un po' con Inception mi è capitato l'opposto. Che gli ho voluto bene, è un film a cui i film per me sono come delle persone. Allora è quello là sfigato di cui parlano male tutti, che tu lo incontri e dici: ma perché ne parlano male tutti? No? Bah, secondo me c'era un motivo. Che storia è? L'effettistica com'è? È bella, buona, molto è buona. Ed è nuova in questo. Allora, il 3D è scamuffo. Ed sì, è un crimine. Ed è un 3D scamuffo, sì. E della serie continuate così. Ma è 3D o no? Sì. Questa è la cosa. Questo è 3D. Lo scrivono, sì, 3D, ma poi alla fine. Però no, è di quelli fatti in fretta, per cui non aggiunge e non leva niente. Quindi, pure se ve lo andate a vedere in 2D, non cambierà molto. Che storia è? È grave. È la storia di un mondo fantasy che è diviso in quattro grandi nazioni, quindi quattro grandi popoli: popoli dell'aria, della terra, dell'acqua e del fuoco. In ognuno di questi popoli ci sono i dominatori, cioè individui particolari che possono dominare l'elemento proprio del popolo, facendo delle cose come il tai chi, si mettono a ballare, è bellissimo. Esatto, e dominano l'acqua. La profezia dice che un giorno arriverà l'avatar, cioè quello che li domina tutti. Ovviamente, congelato nei ghiacci, trovano un bambino che pare proprio che li domini tutti. Pelato. E così non andiamo più avanti, basta. Vabbè, basta. Si chiama Aang. Bambino. È un bravo ragazzo, è un bravo bambino. Ma era congelato, lo scongelano, come fanno? No, sì, lo scongelano. Si scongela. Ah, è vive? Sì, esatto. Anche è un bravo bambino, non vorrebbe far del male a nessuno. È anche un bellissimo film sul fatto che non bisogna menare troppo, è tutta forza mentale. Diciamo che è un Guerre Stellari gambiano, ancora più pacifista, sì, non violent. Cioè Aang mena, però quando mena poi dice sempre: scusa amico, non voglio. Chi ci ricorda Bruce Lee? Mi ha ricordato moltissimo l'etica marziale di Bruce Lee, che non vuole mai datte lo schiaffo per primo, ma visto che tutti gli rompono alla fine arriva Cenne. Ma sempre allora, a me anche così, gli ho voluto bene. E poi c'è una cosa, chiudo, cercherò di essere più chiaro possibile. Oggi vediamo tutti questi film e fra poco arriviamo a un film che è proprio così, tutti spezzettati nel montaggio. Invece se c'è una cosa che ho amato di questo film, L'ultimo dominio dell'aria, è che Shyamalan fa dei piani sequenza, cioè non stacca, e ci fa vedere queste sequenze di lotta lunghe, belle, circolari, e dove l'attore, tu vedi gli attori che veramente fanno una sorta di performance quasi teatrale, perché il movimento non è interrotto mai. Allora, io mi sono rotto le palle di questo cinema hollywoodiano super montato, non capisci più niente, invece qua vedi lento, tutto, vedi tutto, sì, hai il tempo di vedere. E infatti è stato un fallimento, perché Shyamalan fa, e come fa una musica, e fa come fa il Progressive Rock oggi, che esce in un teco, e Shyamalan è andato così. Sì, c'è un piccolo particolare che però Francesco tralascia, un piccolo particolare, che è vero che L'ultimo dominatore dell'aria, come tutti i film di Shyamalan, è diretto benissimo, ma molto bene, che lui è veramente bravo, ma il peccato è che lui, oltre a dirigere, si scrive anche i film da soli, ha dei dialoghi terribili. No, sentite, però scusate, Il Sesto Senso non mi pare che non era scritto male. Io Sesto Senso e Unbreakable, sì, tutto il resto no. Vabbè, proprio no, allora, no, con la croce. Io voglio bene a Shyamalan. Più o meno. Comunque, c'è un ascoltatore che dice: ma solo io trovo tanto gradevole la voce di Francesco quanto fastidiosa e frettolosa quella di Gabriele? Sì, solo tu, pensa. Perché no, anche io, perché tu sei frettoloso. Ma parlo in fretta perché penso in fretta, questa è la verità. Vogliamo dire agli ascoltatori, mi ricordo un film. Bravo. Caro Max, è vero, questo è vero. Caro Max, devi sapere che Gabriele mi voleva menare questa settimana. È vero, mi è stato raccontato. Allora, noi lavoriamo insieme. Ho fatto lo sguardo di ghiaccio di Clint Eastwood. Hai fatto Wolf. Esatto. Hai fatto Wolf. Ed è bastato uno sguardo di ghiaccio. Parlo in fretta perché penso in fretta. Si è alzato dalla scrivania. Sì, sì. È venuto verso la mia, gli tremavano le mani. Ha cominciato a dire. Vabbè, delle è stata una grande performance. Scrimie, delle cose proprio così. E io che ma quello però sempre. Quello non è fatto differente. Mi dicono di riprendere le redini. Calma, andiamo avanti. Okay. Inception. Via. Calla. Allora, Inception, il film della settimana, uno dei film più attesi dell'anno. Che palle. Osannato dalla critica, bene o male, quasi tutti osannato da. io e Francesco siamo divisi su poli opposti. Io non lo Osanno, non lo trovo il film del secolo né il film dell'anno, ma lo trovo un film molto divertente, grande intrattenimento, appassionante. Mamma mia, più che altro lo trovo un film, e vedrete, molto cervellotico, come Christopher Nolan ci ha abituato. Christopher Nolan è, oltre ad aver fatto Il Cavaliere Oscuro, è anche il regista di Memento, è uno che se ne intende di trame cervellotiche. Ma la cosa incredibile che vedrete di Inception è che lui riesce a raccontarvi una trama intricatissima, che io non azzardo nemmeno a cominciare a raccontare perché è veramente intricata, con una bravura, una maestria, un'accessibilità a tutti che non è comune. Sandro, adesso passo la palla a Locke e lo ricoprirà di insulti come raramente avete sentito. No, la fredda cronaca. No, noi lavoriamo in una stanza insieme, ogni tanto lo vedo che si piega su una bustina bianca e fa delle cose molto... Però poi, poi sta a palla dopo. Si sembra una pallina magica. C'è un suono sobrio, tipo... una cosa così. E poi è così tutto il giorno. Ho capito, chissà sessualmente. Comunque, allora, la fredda cronaca, prego. La fredda cronaca. Fredda cronaca. Inception è un film freddo. Ma freddo, freddo che c'ha... ero proprio. Mi sono dovuto mettere il cappotto mentre lo vedevo. Allora, piace a tutto il mondo. Tutto il mondo, tutta la generazione dei critici di Gabriele. Vabbè, adesso non fare il blues. No, io sono da solo. Tutti e tutti per un mondo migliore senza vincolo alcuno. No, ma io mi sento solo, nel senso che piace a tutti. Io sono, forse sono un cretino. Io l'ho trovato un film. Io ho una sola parola, mega ficata. Ecco, vabbè. Ti dovevo interrompere. Ale, volevo dare un giudizio intellettuale. Calma. Ecco perché prego. Io ho bisogno. Devo tenere le redini. Ho bisogno dell'ultimo dominatore dell'aria. Allora, se quello è il perdente. Io sarò sarà snobismo. Sarà snobismo, compagni. Sei un blues noir. Sarà, sì, è veramente incredibile. Sarà radical chic. Non me ne fotte un cazzo. Sono io vado con i perdenti. Allora, Inception, c'è Leonardo DiCaprio che è un bambino. Già io quando vedo Leonardo DiCaprio che è un bambino, non è cresciuto. E quindi vederlo con la giacca e la cravatta mi fa sempre ridere, perché è un bambino con la giacca e la cravatta e la testona così. Sì. Che poi in originale parla così. Che il doppiaggio italiano è un po' come Marlon Brando. Ah, sì? Sì, parla proprio così in originale. Oh. Ed è una cosa che io gli volevo terribile. Bene a lui. Alle mutande strette. No, ma non è cresciuto. Ragazzi, ma siamo d'accordo che non è cresciuto. Là, l'ormone è un po' come me, che sembra sempre un La bambino. Fredda cronaca. La fredda cronaca è un film inutilmente cervellotico. Ci dovrebbe essere una storia d'amore al centro. Cioè, tutto sto gran casino che è entrare nei sogni, andare a rubare le idee dentro i sogni delle persone. Molto Avatar, eh? Molto Avatar nel senso... C'è una netta distinzione tra... Ci sono delle persone che dormono, Sandro, e sono collegate a qualcosa, e poi c'è una dimensione in cui quella persona che dorme in realtà corre, e quindi è assolutamente come Avatar. Cioè, tutte fermi, fai così. Sarà il mondo nostro nel futuro? Faremo così? Ci siamo rotti le palle della nostra esistenza corporea? Ci siamo rotti le palle di Radio Rock, di sto mondo, di te, di me, di lui? Ci guardiamo allo specchio e ci facciamo schifo? Vorremmo vivere nel virtuale? Stringi! Ebbene sì! C'è una storia d'amore alla base di questo, ma c'è Leonardo DiCaprio che sta con Marion Cotillard, che è una stangona francese che sembra una donna rispetto al bambino, e già quello io dico è come Berlusconi che dice cozza. Non ci credo. Cozza, non ci credo, non ci credo. E quindi poi c'è un trattamento dell'inconscio del mondo dell'onirico, che è un action movie dozzinale. A me l'idea che il mondo onirico sia un action movie dozzinale senza alcun tipo di ambiguità, senza alcun tipo di complessità e di contraddizione, è un film che va dritto al suo scopo. Lo trovo veramente banale. Aiuto! Aspetta, ecco. Lo trovo veramente banale. È un cinema che mi fa paura. Non mi piace. Non ti piace. Bene. Una ficatona, vedrete. Andate e rimanete contenti. Ficatona totale. Piace la classifica del box office. È impietosa questa settimana. È terribile. Sì, perché in primo posto c'è un film che io non esito a definire una vera schifezza. Cioè, Mordimi. Ma peggio di me. Era una citazione raffinata questa di un episodio dei Simpson. Vabbè, ma e chi era che lo diceva? Era l'attore che imita. Non tergiversate. Non mi viene il nome. Le redini. Che miseria. Mi levo i microfoni. Ok. Le redini. Insomma, Mordimi è l'ennesimo film della premiata ditta Friedberg-Salzker. Che no, sono Friedberg Salzer, che sono gli autori dei vari epic movie, scary movie. No, scary movie e dei Wayans. Loro c'entravano un po'. Grazie. Era poi sono epic movie. Dovrei fare il critico 300. Poi che altro? Hot movie, hot epic movie, 300. Io, disaster movie. Disaster movie. Lo sapevi dei disaster movie? Mi piace perché non te la prendi. Duello insomma, critici. Dei film comici di veramente bassissima lega, l'equivalente americano dei cinepanettoni. Sì, non però, esitiamo a dirlo. No, però Gabriele, noi siamo critici cinematografici. Sì, e quindi dovremmo dire qualcosa. Perché poi adesso da quando Sandro ha imparato che mi deve minare, lo minaccio col pugno. Mi minaccia sempre. Allora, tu non puoi dire che mi scrivono, calma. Mamma mia, ho visto l'ultimo dominatore dell'aria sull'aereo. È imbarazzante, le scene in cui fanno tutte le pose sono ridicoli. Perché? Mi ha ricordato Eragon. No, Eragon. Eragon, solo con effetti speciali migliori, terribile. Certo, sull'aereo erano 4/3, però PS. Saluti no. dalla Malesia. Vabbè, Stefano. Peraltro, beato te che sta in Malesia. Ci mancherebbe altro. Parliamo, non c'è nessun problema. Però, appunto, vederlo in aereo, a parte l'ultimo dominatore dell'aria in aereo, è divertente. E 4/3, insomma, al cinema puoi esplorare con l'occhio più porzioni del mondo che Shyamalan ci fa vedere. Telegrafico Repomen. No, mi però chiedono. Volevo dire, mordimi, sì. Non è cinepanettone, Gabriele, nel senso che dobbiamo dire che è una parodia, cioè fa parte del filone. Come qualità della comicità e come grettezza. Sì. Però Sharm el Sheikh è terzo. Sharm el Sheikh è un film incredibile. È anche un risultato basso per essere, cioè, Sharm el Sheikh che puntavano a fare meglio. Nettamente meglio di Inception, per quanto mi riguarda. Ma quanto costa fare un film come Sharm el Sheikh, per esempio? Questa è una domanda, Sandro, che desideravo che tu mi facessi. È un film di medio costo, perché un medio costo quanto è? 1 milione di euro? No, sali. Di più? 6 milioni? Secondo me sì. Ma forse qualcosina di meno, perché gli attori non sono poi così pesanti, non sono così. No, Brignano mica te lo porti a casa. Sì, però poco. Solo Brignano, cioè il resto è attori. Ma se e quando ci rientrano? Hanno fatto 1,2 milioni in una settimana. La 4 ciocche anche. No, poi c'è tutto il mercato dei DVD, e ho voglia. Lì chi se li compra più? Comunque, è costato, eh? È costato. No, però se li compra più. No, ci sta. È meno, è sempre in calo, ma c'è. Sì, ma sono andati a Sharm el Sheikh, eh? Quindi costa, cioè è stata una produzione superiore ai 5 milioni sicuramente, secondo me, eh. Comunque il regista è molto simpatico. Chiedevano di Repomen e purtroppo non v'è una data italiana. Sì, Repomen. Senti, stiamo parlando ai nostri ascoltatori che devono andare a cercare sull'internet e vogliono sapere lui come no. si scrive. Lui non si droga, è per questo che è così. C'è mia madre che ascolta, ti ricordo. Sarò l'unico, ma io trovo molto piacevole Vasquez, antipatico grande, e saccente a loco. Mio fratello finalmente manda i messaggi. È sempre Max, è sempre quello di prima. Chi parla male del maestro Vasquez, vedi? Grande, vedi, grande. Bene, ma andiamo avanti. Altri film. Ma avete visto Benvenuti al Sud? Allora, io no, devo vediamo, sapere. Lo vediamo lunedì, perché lunedì. Esce settimana prossima, quindi lo vediamo lunedì. A che ora c'è? Vengo pure io. Alle 10. Di mattina. Vuoi venire? Sì, sì, le altre no, di mattina. Che ci possiamo fare noi, è il nostro lavoro. Io c'è presto. Ma mi sfoggia. No, però. Vabbè, alle 10. Vabbè, alle 10 ci può andare. Sono proprio curioso di vedere che cosa hanno fatto. No, pure io, molto. Tu hai visto anche il francese? Sì, hai visto? Carinissimo. Molto carino. Molto carino. L'hanno girato a Bitinia, peraltro. Cosa? Benvenuti al Sud. Cioè, il Sud è Bitinia. Ah, sì, non lo sapevo. Bitinia, peraltro, che è vicino a dove sono cresciuto io. Che è anche a Pirampepe. Sì, che si presta come cittadina. Perché è molto isolata, no? Effettivamente, quando tu la vedi dalla Colombo. Ah, sì, sta là. Lì. Quindi se tu ci metti un po' di macchine. Io non sono mai stato a Bitinia, tu ci sei. Nemmeno stato. Io. Vitinia, è sempre stato un sogno a Bitinia. Perché tutti passano e vanno a Ostia, ma nessuno va mai a Bitinia. C'era la mia compagna del liceo che era di Bitinia. Che chiamala. Era molto sexy, era molto, chiamala, molto, molto conturbante. Sentiamo che dice di Bitinia. Chissà se è ancora viva, Sandro. Ma come ancora viva? Non lo so. Ma sicuramente sarà vivissimo. Ma invece Bitinia. Di molto interessante, invece adesso a parte Bitinia, di molto sì. interessante. Ma perché è arrabbiato con Bitinia? Ma sì, ti perdi appresso. I ricordi di gioventù delle tue compagne belle. Allora. Esce settimana prossima La Horde, anzi poi rititolato The Horde perché è francese ma lo titolano in americano per l'uscita italiana. Senti sulle pronunce. La Horde. Oh, l'hai visto? Sì, è Venezia dell'anno scorso, non di quest'anno. Vale? Molto bello, sì, vale? Lo consiglio agli appassionati di zombie movie, horror movie. Splatter ammazza sì. tutti. Sì, però più quel Loach. Lo zombie visto da Ken Loach. T'ha intrigato sta cosa. La trama è questa. La trama è proprio la diciamo in due parole due, perché è bello quando gli horror hanno queste trame da due righe. Un poliziotto viene fatto fuori. I suoi colleghi chiaramente se la prendono, vanno a farsi giustizia da soli in questo grande grattacielo alla periferia di una città, dove sanno che ci sono quelli che l'hanno fatto fuori. Entrano tutti armati, cominciano una serie di baruffe, cominciano a sparare, cominciano a fare casino. A quel punto tutti si fermano, buoni e cattivi, perché si rendono conto che stanno arrivando gli zombie. Sono belli quei film dove dei nemici sociali si devono unire per... Esatto. Chi lo faceva? Di fronte a un nemico più grande. Chi lo faceva? Quello che somiglia a me. Chi somiglia a te? Totalmente fuori strada. Eh? Alvaro Vidali. Pippo. Alvaro Vidali. John Carpenter somiglia a te? Ma me l'ha detto mia madre. Ma dici Distretto 13, a cosa fai riferimento? Sì, certo. Ok. E io a chi somiglio? Paul Schaffer. Paul Schaffer. Vero. Ma Paul Schaffer è quell'uomo pieno di capelli che accompagna l'orchestra di David Letterman. Che secondo Gabriele si pronuncia Paul Schaffer. David Letterman. E comunque Paul Schaffer, non Schaffer. Paul Schaffer. Paul Schaffer. Andiamo avanti, prego. Andiamo avanti. No, i film di questa settimana li abbiamo esauriti perché escono solo tre film. Perché tutti quanti Inception si sono messi paura di Inception. Che comunque, nel bene o nel male, già lo sappiamo che sarà il re del box office. Esce in 600 copie. Sì, sì, sì. È un film che è andato benissimo all'estero. Un film gradasso. No, perché già è un film a alto budget. Ed è andato anche meglio di quello che si aspettavano. Ha fatto il botto in America e negli altri paesi. Quindi da noi lo arriva in mille sale. Perché comunque, questo a prescindere da quello che diciamo io e Francesco, in generale possiamo dire che è un film che piace, se sta piacendo al pubblico. Per cui ci si punta molto. Sicuramente settimana prossima sta in cima a box office. Sì, beh, come può non è. Ah, però chissà, forse l'ultimo dominatore dell'aria. Non il credo. Mio. Ho come l'impressione che no. È come Bulldozer. È come Bulldozer. Io gli voglio bene all'ultimo dominatore Bulldozer dell'aria. Di Spencer, sì, certo, sono i perdenti. Va bene, io sto con loro. Uscirà quest'anno Harry Potter. Calma. Uscirà quest'anno l'ultimo Harry Potter, la prima parte. Sì. Per Natale? Che se tu ricordi, raccontammo da questi microfoni che io ero andato alla Invisible Set di Harry Potter. Uscirà un anno fa. Novembre, ottobre, una cosa del genere dovrebbe uscire. Adesso vediamo bene. Io credo di aver. Mi ricordo che avevo guardato ed era novembre. Sì, 19 novembre esce la prima parte di Harry Potter e i doni della morte. E la seconda, se non sbaglio, esce tra un anno esatto. Cioè fanno l'uscita dilazionata, benché li abbiano girati insieme già per risparmiare, ovviamente. Sì, c'è il maghetto e Voldemort. Sì, la cosa è che l'abbiamo già raccontato, l'hanno deciso di dividere in due quest'ultimo capitolo invece che farne un film solo, come sempre, perché hanno dichiarato è talmente grosso e denso che bisogna farne due film. In realtà sappiamo tutti che sta finendo Harry Potter, questo sarà gli ultimi due film, e quindi per massimizzare gli incassi dividono due, ne fanno due film invece che farne uno. Voldemort, una volta finita la saga, Voldemort, il grande cattivo, sarà libero e sarà il ministro dello sviluppo economico italiano. Finalmente Silvio lo sta aspettando. Un'indiscrezione aloesca. Sì, è uno scoop. Senti, informatevi su 007 perché io sto male. C'è aria di crisi, eh? È molta crisi. Non sapete niente. Sappiamo che c'è aria di crisi. Guarda che Jason Bourne, Sandro, gliel'ha messa lì a James Bond. Che vuol dire? Vuol dire che fanno un altro Jason Bourne? Sicuramente faranno un altro Jason Bourne. Faranno il quarto Jason Bourne. Paul Greengrass e Matt Damon si uniranno di nuovo. La spia che chiedeva scusa, non la spia che mi amava, ma la spia che chiede scusa, la spia col senso di colpa, che rappresenta più questi tempi non patriottici, perché non abbiamo stati per cui fare il tifo, non abbiamo stati per cui dire vai a spaccare le palle ai russi, ci fanno schifo i nostri stati. E il cinema hollywoodiano in questo stiamo vedendo delle rappresentazioni della CIA che nemmeno nel 74 dall'epoca del Watergate, questo è molto interessante per noi che ci occupiamo di cinema. Allora Jason Bourne, la spia che soffre. Vabbè, ma perché mi deve rovinare? Sì, no, perché non ho letto una cosa, hanno mandato un messaggio, scusa, abbiamo letto Segno che Sandra siamo morti da ridere perché è geniale. Veramente Alò con i suoi baffetti ti assomiglia ad Ambrogio Fokker, è vero. Ambrogio Fokker, sei uguale. È un bell'uomo. È vero. C'aveva un bel cane. Non stiamo dicendo che sei brutto. C'aveva un bel cane. E la gente, veramente anni 80. La gente gli voleva bene, Ambrogio. Qualcuno. È un bell'uomo, Ambrogio Fokker. Non abbiamo detto che sei brutto. Prego, andiamo avanti. Prosegui il monologo. No, me l'hai rovinato perché era un monologo molto importante sulla. Grandissimo sulla politica cinematografica. Che dire, Jason Bourne è una spia triste. Mo sta cosa di Fogart. No, io ho sempre amato anch'io Dimensione esplorare il mondo. Ma è vero. D'altronde si esplora il mondo con l'ultimo dominatore dell'aria. Bellissimo. E comunque insomma, Jason Bourne, la spia triste, la spia col senso di colpa, la spia che il governo vuole uccidere, quindi la spia che il governo non riconosce più e che scappa e che dice che cavolo mi hanno fatto, no, non c'ha più memoria, dice no, io ero un ragazzo l'ultima per bene. Puntata la memoria ce l'ha, lo cioè so la, però la, se tu fai scoperto. Caso se tu fai caso mo, se tu fai caso Casino Royale, che è stata la diciamo il rilancio del nuovo 007, era uno 007 tristissimo, sì. Era uno 007 che non era legittimato anche professionalmente, era solo era un precario, era solo era precario, sì. Cioè, era M gli diceva oh tu guadagni la pagnotta, esatto, come un po' come siamo io e lui, no, esatto. Costantemente qua come dentro. Sei te con me sul lavoro. Sì, e allora Bond ha copiato Bourne e è stato ucciso da Jason Bourne. Basta, ecco, finito. Bene. Ambrogio invece finito. Chiedono una cosa interessante, sì. Perché Steven Seagal, Kurt Russell e Van Damme non sono tra i mercenari? Perché non hanno considerato Chuck Norris? Allora, tutto non ho una risposta a tutte queste domande, però posso dire che nessuno molti, può considerare Chuck Norris. È vero, solo lui, solo lui può considerarsi. Chuck Norris è un supereroe. Esatto. No, ma diciamo solo Chuck Norris può considerarsi. Esatto, bravo. No, molti di questi che sono stati elencati, sicuramente Van Damme e Steven Seagal, Kurt Russell non so, hanno rifiutato proprio, cioè gli è stato chiesto e non hanno voluto, perché queste sono indiscrezioni, non te lo posso dare come ufficiale, però si dice che esatto, che la loro, secondo loro il ruolo che gli era stato offerto era troppo piccolo, non gli andava bene, non accettavano di essere di non essere al centro della scena, ecco. Gran peccato. Un po' come Gabriele adesso, dopo esatto, sono io. Cerco di cacciarti in ogni maniera. Ma in 3D cosa? Inception. Inception no, perché Christopher Nolan non ha voluto 3D. Assolutamente ha detto che un film come Inception non deve andare in 3D. Anche in 2D c'è qualche problema. Detto ciò, il 3D è per l'ultimo dominatore dell'aria, ma è un 3D un po' tarocco, nel senso Lisa si chiama? Sì, Lisa. Lisa, se ti togli, se vai a vederlo, ti metti gli occhiali e te li togli, quasi vedi meglio quando ti sei tolta gli occhiali. Parola d'Ambrogio. 2. Sì. Ah, beh, io non vedo l'ora di vederlo. Pure io, molto. Io sono curioso. Un fan di Paranormal Activity, Tu? Ma. Abbastanza. Ah, non come te, che sei più violento di me. Ma abbastanza. Guarda che quello divide molto. Ma invece ma sta annoiato. Per uscire. Come le streghe, come si chiamano? No, Blair Witch Project. Blair Witch Project. Invece Blair Witch Project, rivedendo. Invece vedrete, adesso cominciamo, non diciamo niente, annunciamo solo, perché noi l'abbiamo già visto e ci hanno già fatto vedere. Sta per uscire il 15 ottobre. È un film che per certi versi può ricordare Paranormal Activity, perché è fatto con poco, ma che è diverso e ha una grande idea. Si chiama Buried, sepolto, ed è un film che ne abbiamo parlato di un uomo sepolto in una cassa. Cioè c'è un uomo che si sveglia in una cassa da morto sottoterra, non sa perché, poi piano piano se lo comincerà a ricordare. Dentro la cassa c'è un telefono cellulare, perché gliel'hanno messo quelli che l'hanno chiuso, e c'è un motivo che si scopre. E niente, e lui deve disperatamente cercare di uscire. Bellissimo. Film bellissimo. Altro che quella cacata di Inception. Detto ciò, il regista, senza polemica, il regista di Ambrogio non fa polemica, esplora il mondo insieme a voi. Il regista di Buried, Rodrigo Cortés, sarà protagonista di un evento organizzato dalla nostra scuoletta, dove tu, Sandro, eri oggi. Quindi possiamo anche invitare degli ascoltatori di Radio Rock. Il 7 ottobre verrà da noi a chiacchierare. Il regista del film della Cinecittà. Alla NUCT. Tutto per noi. Invidiamo. Chi vuole venire a parlare con Rodrigo, ci saremo io, Gabriele, Rodrigo. Tutta una grande simpatia. Ma Macete, che qui non si vede. Macete l'hanno acquistato. L'ha acquistato la Key Films. Ma non esce. Non mi esce. Uscirà. No, uscirà. È stato acquistato, per cui sicuramente viene. Io sono d'accordo. Hanno fatto un errore, Dovevano sfruttare il lancio. A Venezia è piaciuto molto. E quindi dovevano un po'. Ma forse avevano gli slot già pieni. Cioè c'era poco da scegliere, forse. Questo Wall anche. Denaro non dorme mai. A meglio dire, non è piaciuto. Ecco l'Ambrogio Fogger. Esatto. Ma lo sai che ci assomiglio veramente? Ma non era già uscito questo qui? È bell'uomo. Non era già uscito Wall Street? No, Wall Street ne avevamo parlato, perché io che sono andato a Cannes l'avevo visto a Cannes. L'è stato presentato a maggio. Allora, a me non è piaciuto. E vado proprio dritto. Dove sei stato, scusa? A Cannes, al Cannes Film Festival. È stato in un campeggio là vicino. Non mi è piaciuto, perché cos'era il bello di Wall Street? Come in molti grandi film, il bello di Wall Street era il cattivo, era Gordon Gekko. In questa storia di aspirazione sociale c'era questo straordinario personaggio, questo straordinario villain, Gordon Gekko, questo avidissimo. Con il look ispirato a? Ispirato a? Dimmelo tu, Francesco. Che è ispirato a? All'allenatore di basket dei Los Angeles Lakers degli anni 80, Pat Riley. Chissà perché non mi è venuto. Allora, c'era il grandissimo Gordon Gekko, che torna in questo secondo Wall Street, è sempre Michael Douglas. Però la cosa che affossa il film è che hanno rivisto l'idea di Gordon Gekko. Cioè Gordon Gekko non ha più quel fascino straordinario del male, diventa un qualsiasi lo hanno acquietato, è diventato uno soggetto per famiglie. Cioè Gordon diventa buono? Io non posso anticipare troppo del film, però non è quello squalo di prima, è proprio privo di fascino, zero fascino. È un film di una persona anziana e non un film con le palle incazzato come era il primo Wall Street. Ma certo Oliver sta un po' si è rammollito. Brutta china. Oliver Stone si è un po' rammollito. Certo che Ambrogio in quella foto sembrava aver preso l'LSD. Ma guardalo. E per questo ti somiglia. Sì, infatti è qualcosa tra me e lui. Ce ne andiamo così come siamo arrivati senza un vero perché. Grazie alla televisione. La televisione, presto. Allora, questa settimana due film degni di nota che vi consiglio. Uno, ne hanno parlato tutti. Tutti in lungo e largo ne hanno parlato. Però se non l'avete visto, questa volta passa in televisione a un orario accettabile. Ed è Gomorra, Rai 3 alle 21. Siccome vale la pena vederlo, se ve lo siete perso in lungo e largo, venerdì alle 21 su Rai 3 fanno Gomorra. Bella stasera. Bello. No, venerdì prossimo. Eh beh, dillo venerdì prossimo. Questa, sì, ogni volta facciamo questa polemica. Io questa rivista c'ho in mano. Vabbè, tienila per venerdì prossimo. Venerdì prossimo comunque lo ricorderò. Bene, poi gli piace Inception. Mi piace Inception, che chiaro, mi dà questa forza. Poi altro film molto bello che vi raccomando, giovedì alle 23:50 su Rete 4, Onora il padre e la madre, il grandissimo bello ritorno di Sidney Lumet. Sì. Un regista che io, che sono bello pieno di pregiudizi, pensavo ormai avesse finito le cose da dire, sì, invece mi sbagliavo. No, perché? Mi sbagliavo la grande. Scena di sesso bellissima, Onora, iniziale. Onora il padre e la madre, 23:50 Rete 4, giovedì. Telegrafici, vai. Parlavo di Harry Potter, sarà in 3D? Io non credo, adesso è un azzardo, devo dire che non mi ricordo più, ma non credo proprio. Mi no, pare inutile. No. Il 3D è una cagata pazzesca, sempre con no, no, no, Avatar, non siamo bello. Beh, no, ma anche bello altri, non solo Avatar. Avete visto Fratelli in Erba? Una schifezza, brutti pure i numeri primi. No, no, beh, a me Fratelli in Erba è piaciuto. No, Fratelli in Erba è una commedia amara, un po' Fratelli Coen, non è a livello di Fratelli Coen, ma è molto interessante. C'è Edward Norton in un doppio ruolo. Bravo. Molto, molto, molto duro. Molto duro, veramente, secondo me, diciamo, vale la pena. Sorprendente. Un Fratelli Coen meno sofisticato. Sì. E i numeri primi, interessante. Forse non bello, ma molto interessante. Sai che devo ancora vederlo? Devo andare a vedere, devo andare al cinema con i comuni mortali a vederlo. C'è Sandro che... Vasquez rimase folgorato dalla struttura harrypottiana degli studios. È vero, grandi questi ascoltatori che si ricordano mi fanno godere tantissimo. Mister è vero, Combo. Ero rimasto veramente folgorato perché insomma andare su questi set giganteschi, bah, insomma, è veramente impressionante. Poi avevano, devo dire, senza che mi dilungo, però avevano proprio quelle cose che ci fanno sempre ridere dei set, cioè che tu da lontano lo guardi e pensi ma guarda quel tunnel quanto è lungo, ma quanto hanno scavato, poi ti avvicini ed è una cosa dipinta sulla parete in realtà. Meraviglioso mondo del sì, cinema. Esatto, era veramente bello. Oggi tu hai visto le scenografie di un film. Sì, sì, è inutile ho visto, che ho visto più d'una. Di più un d'una. Filmone. Di un dove filmone. Ci sarà Robert De Niro. Di un filmone. Sì, sì. Produttivamente parlando, sì. Ah, però non filmone. Beh, magari è bello un film per cui ci sono stati spesi tanti soldi. Sì. Così. Manuale d'amore 3. In con i due Robert De Niro. Cioè io questi lui film non li... Ma, no, io non amo per niente Giovanni Veronesi, quindi no proprio, sono... Ma che sono film d'amore proprio quelli... Sono film comici ed episodi. Agrodolci. Sì. Verdoniani, non con la classe di Verdone, però quella categoria filmica. Nemmeno troppo, insomma, collettivi più produttivi, più Aurelio De Laurentisiani più che Verdoniani, un'idea di supercast. I cinepanettoni dove vanno quest'inverno? Ah, sai che non mi ricordo. Natale, ah? Quest'anno dov'è? Non lo so. Porca miseria, non mi ricordo, eppure l'hanno già niente, girato. Non sapete ma niente. Aspetta però, c'è una cosa da dire. Che Neri Parenti quest'estate ha fatto Amici miei, eh? È vero, è vero. E se fosse la volta che... Che abdica? Eh beh, e che ne fa due di età? No, sicuro esce farli. Perché se ne è parlato, perché c'era un film che doveva uscire il giorno del cinepanettone e invece scusa, è stato rimandato. Era Cinecittà a fare Amici miei, rinascimentale. No, ti ricordi che c'era un film che è stato rimandato che doveva uscire proprio il giorno del cinepanettone? Che noi avevamo detto, ma ti pare che lo fanno uscire quel giorno? Purtroppo... Attenzione però, Gabriele, eh? E Amici miei dove lo mettiamo? Ma se fosse quello... questa è una bella domanda. La settimana prossima sicuramente non avremo la risposta. Qua. Seguiteci, non avremo la risposta. Come sempre. Grazie a tutti e a tutti, a lunedì per quel che mi riguarda. Ricordatevi sempre che è una pietra che rotola, non caliamo su quello. Ciao, grazie. Baci. Grazie a tutti e a baci, due. Baci. Ciao.